Bene, siamo in collegamento con Stefano Ricci per parlare del nuovo spettacolo in scena della compagnia Ricci Forte, Easy to Remember, al teatro Off di Roma, al centro di Roma, un nuovo spazio. Intanto Stefano, benvenuto al Radioteatro su Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Allora, intanto io partirei da questo nuovo spazio. Stefano, com'è stato il vostro incontro? Ma è un incontro, diciamo, che è avvenuto diversi anni fa, nel senso che conoscevamo già Silvano Spada, che è appunto questo folle mecenate che ha deciso di investire praticamente su una landa desertificata come quella romana, e per cui nel momento in cui mi ha proposto di partecipare appunto a questa nascita, a questo nuovo spazio, mi sembrava al di là di tutto un'impresa da condividere, perché in questo momento preciso, storico, in cui i teatri stanno chiudendo o subiscono, diciamo, una moria collettiva da un punto di vista così intellettuale, l'idea di qualcuno che invece provi a innestare nuova linfa vitale mi sembra assolutamente condivisibile. Quindi abbiamo partecipato con entusiasmo e ora ci troviamo qui e siamo pronti a verificare appunto questo spazio. D'altronde è già uno spazio, si respira già un'area differente da un punto di vista strutturale, e vedremo se poi anche il pubblico percepisce questo nuovo impulso, ecco. Senti, anche per chi ci ascolta e per i più giovani e chi magari non è a conoscenza del vostro lavoro, come racconteresti in breve la vostra esperienza? Ma è come raccontare un'esperienza di vita che da anni investe energie e idee in un progetto. È un ensemble che si è formato 10 anni fa, e siamo io e Gianni Forte, e appunto io insieme a Gianni ci occupiamo della drammaturgia e io poi mi occupo del lavoro con gli interpreti della regia in scena. Siamo partiti con una voglia di raccontare, di trovare un ponte di connessione con il pubblico che fosse assolutamente nostro e scevro da qualunque moda imperante, e lentamente negli anni l'aspetto del pubblico è cresciuto e ci ha portati persino poi a farci conoscere, a far conoscere il nostro lavoro un po' in tutto il mondo. E questo devo dire che probabilmente anche poi tornare ora a Roma, tornare in uno spazio che comunque vuole proporre qualcosa di differente, con uno sguardo che probabilmente è il nostro. Noi ormai da diversi anni residiamo in Francia e da lì quindi c'è uno sguardo probabilmente meno asfittico, sì, rispetto a quello, sì, che può essere il panorama nazionale. Riusciamo continuamente a metterci in discussione appunto attraverso anche il confronto, sicuramente con il teatro che si fa nel mondo. Sì, sì. Stefano, allora parliamo anche un po' di questo spettacolo Easy to Remember. Di cosa si parla? È uno spettacolo sulla memoria, uno spettacolo che è un incontro preciso con una poetessa che è Marina Svetaeva, una poetessa russa che è vissuta nei primi anni del Novecento e che anche lei ha avuto una vita, diciamo, esclusivamente votata all'espressione artistica. Di fatto però questa parola poetica, questa volontà di esprimersi attraverso qualcosa che non fosse quotidiano, non è stata bastevole, perché poi la vita e gli eventi dalla rivoluzione d'ottobre in poi e Stalin e tutto il resto hanno fatto sì che lei venisse messa ai margini e lentamente si è spenta fisicamente, nel senso ha deciso poi di togliersi la vita. In questo caso noi, nella nostra indagine, parte proprio dal comprendere quanto la poesia, quanto la cultura, quanto l'arte oggi possa essere bastevole o debba necessariamente innestarsi al presente, a quello che ci circonda, rimanere connessi affinché non diventi poi una tana in cui rifugiarsi. Ed è esattamente quello che facciamo con due interpreti che sono le nostre interpreti, le colonne storiche del nostro gruppo, Anna Gualdo e Liliana Laira, in cui cerchiamo proprio di segnare il passo rispetto a quello che può essere la figura dell'artista, che tende invece a proteggersi e a far sì che il teatro, in questo caso specifico, e la letteratura diventino una bara in cui chiudersi, togliendosi qualunque possibilità di vita autentica. Ecco, proprio rispetto all'operazione della messa in scena, come avete realizzato questo connubio tra poesia e teatro? Con la nostra usuale metodologia, nel senso che noi lavoriamo, ovviamente non lavoriamo con sull'interpretazione di un personaggio, sì. Lavoriamo su delle suggestioni, c'è una dimensione visionaria, c'è un uso del corpo ben preciso e dell'emozione fisica in scena, quindi si va per suggestioni, è sicuramente una zona neutrale, onirica, in cui però la concretezza della parola, la concretezza del verbo, l'espressione sia della laringe che dello scheletro si sposano a questa volontà di condividere qualcosa che vada a frantumare questo perbenismo, questo essere seduti, che in qualche modo il tempo presente, i social, la TV ci hanno costretti ad assumere come modus vivendi. Stefano, la stagione teatrale poi come proseguirà? La nostra stagione teatrale proseguirà, siamo artisti associati di un teatro francese per il prossimo triennio, stiamo già gettando le basi per il prossimo progetto e quindi costruiremo un nuovo progetto l'anno prossimo. Nel frattempo continua la nostra tournée, siamo appena reduci da una tournée in America Latina di 50 giorni e l'anno prossimo continueremo ancora a girare l'Italia, saremo a Milano con un nostro spettacolo e poi ci sarà la ripresa delle opere liriche che abbiamo già fatto l'anno scorso, nuovi progetti lirici che faremo nel 2018, insomma non ci si ferma mai. Allora ricordiamo l'appuntamento con Easy to Remember all'Off-Off Theater a Via Giulia qui a Roma dal 12 al 23 di dicembre. Stefano, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Crepi il lupo, grazie, ti aspettiamo a teatro. Ciao, grazie. ciao.